con Giorgio Giannini, autore del libro Vittime dimenticate, lo sterminio dei disabili, dei rom, degli omosessuali e dei testimoni di Geova, a Roma, alla Biblioteca Cornelia, giovedì 27 gennaio, nella giornata della memoria, un evento online. Ben trovato! Salve a voi, vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Queste categorie di persone sono state prima discriminate, perseguitate e anche eliminate, soprattutto in Germania. Ma basti pensare, per esempio, ai testimoni di Geova: in Germania erano circa 150.000, da noi c'erano poche centinaia, però anche loro sono state discriminate durante il periodo fascista. Come dicevamo prima fuori onda, si ricordano soprattutto le vittime ebraiche e gli oppositori politici, ma insomma ci sono varie categorie che sono state sterminate nei campi di concentramento. Di quante persone stiamo parlando? Ci sono delle cifre? Le cifre non sono magari molto precise, perché gli storici, soprattutto stranieri, si sono occupati di queste cose negli ultimi decenni. Per quanto riguarda i rom si parla di 500.000, però il numero è reso difficile dal fatto che molti di loro non erano censiti. Parliamo dei rom che vivevano per esempio nei paesi dell'est, mentre invece in Germania erano molto ben inseriti all'interno della comunità tedesca, avevano anche combattuto la prima guerra mondiale. Poi per quanto riguarda gli omosessuali parliamo di diverse migliaia, comunque meno di 10.000. Testimoni di Geova circa un migliaio, perché quando loro furono internati durante la guerra nei lager, circa 600-700 sono morti per la vita molto pesante, no, che si viveva all'interno dei lager, dove tra l'altro loro erano considerati dei prigionieri volontari, perché bastava che firmavano una dichiarazione di abiura della loro fede religiosa e venivano immediatamente liberati. Quindi erano i prigionieri volontari, oppure così loro si considerano, e circa 300 sono stati condannati a morte impiccati perché rifiutavano il servizio militare. E i testimoni di Geova sono stati perseguitati, come anche gli omosessuali, all'inizio dell'avvento del nazismo, no? Pensate che il loro movimento è stato sciolto nel 1935, poi loro non facevano il saluto nazista, non esponevano la bandiera nazista nelle ricorrenze ufficiali, quindi erano considerati degli oppositori, tant'è vero che nelle riviste che si diffondevano a livello internazionale loro avevano già criticato nella seconda metà degli anni 30 l'aspetto guerrafondaio, l'aspetto razzista del regime nazista. Poi per quanto riguarda i disabili, questo è un altro tema molto delicato, perché loro sono stati tra i primi ad essere discriminati, e nel luglio del 1933 è stata approvata una legge che prevedeva la sterilizzazione. Tra l'altro questa legge poi è stata applicata anche a persone considerate asociali, per esempio i rom e anche alcuni omosessuali. Poi successivamente per i rom c'è stato anche per loro internamento ad Auschwitz nel dicembre del 1942 con un decreto apposito. Comunque, ritornando ai disabili, ci sono tre fasi. La prima fase è quella della sterilizzazione, che va dal 1933 fino al 1939, quando scoppia la guerra. Quando scoppia la guerra si avvia la fase della eliminazione, il progetto T4, chiamato eutanasia, ma chiaramente era una eliminazione selvaggia, in 6 centri appositamente allestiti, dove si è sperimentata e si è utilizzata per la prima volta e poi è stata applicata ed estesa ai campi di sterminio la gassazione. All'inizio si faceva convogliando i gas di scarico all'interno di alcuni furgoni chiusi ermeticamente, dove venivano fatti salire 20-30 persone per volta. Questo furgone faceva un giro di un quarto d'ora, mezz'ora, e in questo lasso di tempo tutti venivano uccisi con l'ossido di carbonio. Poi dopo si è sperimentata la gassazione in appositi locali a diverse decine per volta, e poi chiaramente con la soluzione finale avviata nel 1942 è stata poi utilizzata nei campi di sterminio. Questo progetto T4 è durato un paio d'anni, però in questi 2 anni sono state uccise circa 70.000 persone, di cui 5.000 bambini. Poi nell'agosto del 1941 questo progetto è stato ufficialmente sospeso, perché le chiese, soprattutto quella protestante, avevano protestato nei confronti del governo, perché avevano saputo dai loro fedeli che parecchi parenti di questi loro fedeli erano morti stranamente negli ospedali dove stavano, e che poi erano stati anche cremati. arrivava ai familiari una comunicazione, diceva che il loro parente ricoverato era morto per una malattia infettiva, per cui il corpo era stato cremato e loro potevano ritirare le ceneri anche gli effetti personali. Però queste morti divennero sempre più diffuse. Vi ho detto che in 2 anni circa 70.000 persone. E quindi hanno protestato soprattutto il vescovo di Münster, che è chiamato il Leone di Münster per la sua tenacia antinazista. L'arcivescovo von Galen fece delle omelie pubbliche, poi scrisse anche dei documenti scritti ai parroci che furono letti nelle varie parrocchie. Quindi il regime nazista sospese ufficialmente questo progetto di 4. Questa sigla deriva dal numero 4 della Tiergartenstrasse, un quartiere di Berlino. C'era una villa confiscata a una famiglia ebraica dove c'era il quartier generale di questo progetto. Una volta sospeso però non è che ha terminato, non si è proseguito in un modo un po' più camuffato attraverso la dieta per fame, cioè queste persone malate incurabili, soprattutto ma anche prigionieri dell'est che non erano più in grado di lavorare, venivano ricoverati negli ospedali e siccome chiaramente i posti servivano per ricoverare soldati e cittadini tedeschi, venivano sottoalimentati, per cui dopo qualche settimana morivano e in questo modo sono morte altre 100.000 persone, si calcolano. Ecco, tutte queste cose sono state poi scoperte negli anni 70, quando dei giovani psichiatri hanno potuto accedere agli archivi di questi ospedali e quindi è uscito fuori il problema. Poi ci sono stati anche dei processi nel dopoguerra, però molti si sono nascosti dietro il fatto che seguivano gli ordini, no? Per cui le condanne sono state abbastanza blande. Poi per quanto riguarda anche gli omosessuali, anche loro sono stati discriminati subito e perseguitati, perché chiaramente per il loro tipo di vita sessuale loro attentavano alla purezza della razza ariana tedesca, per cui per esempio il primo centro che è stato chiuso era un centro che lottava per i diritti civili a Berlino. Berlino era una città cosmopolita dove c'erano decine e decine di centri frequentati da omosessuali e poi c'è stato tutto un discorso anche politico, perché la notte dei cristalli del 38 è stata la conseguenza della morte a Parigi di un segretario dell'ambasciata tedesca che era stato ucciso da un omosessuale che era anche comunista, per cui in conseguenza di questo, che era anche ebreo, si è scatenato nella persecuzione contro gli ebrei che ha portato appunto alla notte di cristalli. Sono state distrutte circa 250 sinagoghe in tutta la Germania, migliaia e migliaia di negozi, qualche migliaio di persone arrestate eccetera. E poi è diventato anche un problema di lotta interna al partito nazista, è stato anche rappresentato in un film, La notte dei lunghi coltelli. Infatti il capo dell'SA, che era la prima formazione paramilitare partito nazista, era diretta appunto da questo Rem, che tra l'altro era un amico d'infanzia di Hitler, che era accusato di omosessualità. Quindi chiaramente eliminato lui, eliminati anche gli altri dirigenti, questo movimento c'erano le camicie brune. Infatti nei primi documentari sul nazismo si vedono essenzialmente camicie brune ed erano arrivate ad essere alcuni milioni in tutta la Germania. Poi successivamente, con la scomparsa dei dirigenti, in questo movimento è stato abbastanza rapidamente soppiantato invece dalle SS, che era all'inizio l'elite paramilitare a tutela di Hitler, cioè dei capi del partito nazista. Quindi ecco, tutte queste cose riguardano essenzialmente la Germania, perché noi negli anni 20 e 30, per quanto discriminati, vi ho parlato prima dei testimoni di Geova, ma anche gli omosessuali internati, mandati al confino, per esempio alle isole Tremiti, anche i Rom sono stati discriminati come già lo erano da secoli. In Germania invece hanno avuto una durissima repressione. E poi soprattutto questo fatto che riguarda i disabili, perché erano considerate delle vite improduttive, addirittura il termine tedesco era vite indegne di vivere, quindi erano non persone, per cui dovevano essere eliminate. All'inizio soltanto sterilizzate per evitare l'appropriazione, poi quando è scoppiata la guerra, siccome erano improduttive e rappresentavano un peso economico per la società, si è deciso di eliminarle. Ci sono dei riferimenti web? Basta digitare vittime dimenticate oppure stermini dimenticati. Volevo dire un'ultima cosa, che per esempio da una ventina d'anni, il 27 la sera, si fa una fiaccolata organizzata dall'Opera Nomade, a cui aderisco da molti anni, anche il circolo Mario Mieli e un'altra associazione di persone con handicap, che è una piccola marcia con fiaccolata che dà da Piazza dell'Esquilino, Santa Maria Maggiore, fino a Piazza degli Zingari, dove c'è un monumento posto dal comune una ventina di anni fa si parlava anche di un monumento un po' più visibile rispetto alla targa, però questo monumento non è stato fatto. Poi in Parlamento da diversi anni sono state presentate delle proposte di legge, soprattutto al Senato. L'ultima in questa legislatura l'ha presentata la senatrice De Petris e la senatrice Scirinà, che prevedono di integrare la legge 211 del 2000, che ha istituito il giorno della memoria, prevedendo di ricordare, oltre a quelle categorie che abbiamo ricordato prima, quindi la Shoah, lo sterminio degli ebrei, leggi razziali, deportati politici e gli IMI, anche appunto i rom, i sinti, gli omosessuali, i disabili e i testimoni di Geova. Purtroppo questa proposta di legge, la prima è stata presentata dalla senatrice Tiziana Valpiana di Fondazione Comunista nel lontano 2006, poi sempre ripresentata a ogni legislatura, non è stata mai neppure discussa nella commissione competente. Il libro Vittime dimenticate, lo sterminio dei disabili, dei rom, degli omosessuali e dei testimoni di Geova, una presentazione online a Roma, alla Biblioteca Cornelia, giovedì 27 gennaio 2022, nel giorno della memoria. Un saluto e un ringraziamento all'autore Giorgio Giannini. A presto. Grazie a voi, grazie. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Stefano Finesi di Teodora per presentare il film Quel giorno tu sarai al cinema dal 27 gennaio 2022. Ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Raccontiamolo brevemente. È il nuovo film di Cornel Mondruzzo, un regista teatrale e cinematografico, è arrivato al grande pubblico soprattutto grazie a Pieces of a Woman, che era il film precedente, candidato all'Oscar, vincitore di un premio a Venezia e poi acquistato e distribuito nel mondo anche da Netflix. Quindi è un regista di nicchia che è riuscito a raggiungere un grande pubblico. Questo è il nuovo film, sempre diretto da lui, sceneggiato da Kata Weber, che è la sua collaboratrice fidata, nonché moglie peraltro, e sempre prodotto da Martin Scorsese, come era stato per Pieces of a Woman. Il film si sviluppa in tre episodi e racconta il trauma della Shoah nel modo in cui si propaga attraverso tre generazioni, quindi dal primo episodio, che si svolge direttamente alla liberazione di un campo di concentramento, fino alla Berlino multietnica di oggi, in cui l'antisemitismo, anche se sotterraneo, permane. Però ecco, il film poi si chiude anche con una nota di speranza molto bella, soprattutto affidata alle nuove generazioni. La vera forza emotiva del film è anche in un cast straordinario di attori, poi sempre anche con un passato teatrale. Tra questi cito Lili Monori, che è forse la più grande attrice di teatro e cinema ungherese, che sta nell'episodio centrale, nel secondo episodio. E poi c'è anche un lavoro sulla messa in scena e sulla regia davvero sensazionale, perché di fatto i tre episodi sono in tre piani sequenza e non è un virtuosismo gratuito, è una scelta che comunque assicura una tensione drammatica a tutto il film veramente incredibile. Il titolo internazionale è Evolution. Sì, abbiamo provato a dargli un carattere un pochino più evocativo. Evolution, per quanto ovviamente sia più che sensato, però ha quasi un taglio scientifico, ecco. Invece volevamo qualcosa che aprisse un po' più verso anche la poesia, e quindi abbiamo scelto questo titolo. So che spesso, insomma, i distributori fanno un sacco di pasticci quando scelgono un titolo italiano per un film. In questo caso credo che aveva un senso, ecco, questa scelta. C'è un riferimento per questa scelta nel film o anche rispetto al regista? No, non c'è un riferimento preciso, è un titolo che vuole, ecco, aprire un po' sulla speranza, essendo un film di base sull'identità e sulla memoria e di come un trauma, appunto, poi si passa attraverso le varie generazioni e come le persone di una famiglia vivono ognuno a suo modo quel trauma, e questo titolo in qualche modo almeno apre un po' a una speranza, a un superamento totale, insomma, che nel film si intravede nel finale, ecco. Una coproduzione tedesca e ungherese, due paesi in cui comunque c'è un problema legato all'antisemitismo e alla memoria storica. Sì, diciamo forse più che la Germania di questi tempi, direi quasi l'Ungheria. Il film peraltro è ispirato in vari modi a degli episodi reali della famiglia di Kata Weber, che è appunto la sceneggiatrice, che spesso si mette in gioco e mette in gioco il proprio il vissuto, come era successo per Pieces of a Woman. Forse molti spettatori non sanno che appunto quello è un evento reale accaduto a Kata Weber e al marito, il regista Cosme Mondruzzo. E così anche in questo film si rielaborano degli episodi della vita reale. Tra questi c'è per esempio il fatto che, come poi gli spettatori scopriranno anche nel secondo episodio, in Ungheria sono stati messi dei paletti burocratici molto pesanti per le richieste di indennità da parte delle famiglie ebraiche per l'Olocausto, per i vari indennizi. Il governo Orbán, ecco, ha reso tutto più complicato, diciamo così. Quindi ecco, per quello che dicevi giustamente, forse in questo momento per me è molto più preoccupante l'Ungheria, insomma, come atteggiamento su un certo tipo di questioni. Quali sono i pregi principali per te di questo film? Da una parte si percepisce che è un film molto sentito, che ha alle spalle un vissuto e quindi senti con forza quel punto di vista. E poi c'è la questione degli attori, che sono veramente sensazionali, e qui il merito va anche a un background teatrale di altissimo livello, perché Mondruzzo è comunque uno dei più grandi registi europei del teatro contemporaneo. E poi l'altra, soprattutto per gli amanti del cinema, la tessitura formale del film è veramente sensazionale. Peraltro la fotografia è di uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema di oggi, che è Yori Clézeau, che è un direttore della fotografia francese che ha lavorato con tantissimi registi contemporanei ed è veramente un mago. Lui è un collaboratore storico di Assayas, di Jarmusch, di François Ozon. Per l'Italia ha lavorato anche con Guadagnino, e qui veramente si supera, perché è un vero tour de force la messa in scena, con questi piani sequenza vorticosi e di un'intensità travolgente, e che comunque, ti ripeto, non sono mai degli estosismi fine a se stessi, ma poi riescono anche a valorizzare la performance degli attori e a tirarne fuori il meglio, insomma. Che uscita sarà? Per questo tipo di film art house intransigenti, diciamo, sarà una bella uscita, perché dovremmo andare oltre le 40 copie in tutta Italia. In questo ovviamente anche legandosi al fatto che giovedì è il giorno della memoria, per cui comunque abbiamo avuto molte richieste. Chiunque ha visto il film se ne è innamorato. Peraltro l'anteprima mondiale è stata a Cannes, era nella sezione Camp Premiere, una sezione fuori concorso con le anteprime più prestigiose, e chiunque l'ha visto è rimasto a bocca aperta, e quindi siamo molto fiduciosi. È un film bello, un film importante. Speriamo che il pubblico, anche se i tempi non sono facili, possano vedere le più persone possibili. Il film Quel giorno tu sarai al cinema da giovedì 27 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi di Teodora Film. Grazie. Alla prossima. Ciao Federico. con Filippo Vendemmiati, regista del documentario Lex Kiss, Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile, al cinema dal 31 gennaio al 2 febbraio 2022. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti! Ci racconti di questo lavoro? Beh, il film è esordito nell'ottobre dell'anno scorso al Festival di Roma, nella sezione Alice della Città, poi ha girato alcuni festival, ha vinto il premio del pubblico all'Italian Film Festival di Berlino, un premio di cui siamo molto orgogliosi, ma ci siamo anche molto divertiti a partecipare a questo Festival del Cinema Italiano a Berlino. E adesso approda nelle sale in un momento, come tutti sappiamo, non difficile, ma difficilissimo. Usciamo e vedremo come va. La nostra avventura anche un po' azzardata, controcorrente, nella settimana non solo del Covid, ma anche nella settimana del Festival di Sanremo. Com'è nato il progetto? Da un rapporto molto stretto tra me e il protagonista del film, Franco Grillini. È un film nato circa 3 anni fa. È iniziato con una lunga chiacchierata tra me e lui, e da lì siamo partiti per realizzare questa lunga camminata musicale sui luoghi della sua formazione politica e sociale. Le musiche sono di Paolo Fresu e io sostanzialmente accompagno il racconto ironico, poetico, impegnato di Franco lungo i luoghi della sua crescita culturale e sociale e del suo coming out, un coming out tardivo, arrivato a 27 anni come lui dice, e che parte dalle colline attorno a Bologna, un rapporto molto stretto con la campagna e con la natura e anche con i genitori, e poi si sposta da Bologna in varie parti d'Italia, approda in Parlamento 7 anni, dove Franco è stato deputato e fondatore dell'Arcigay, lo ricordiamo, oggi presidente onorario, e questo viaggio si conclude in un gay pride sontuoso con 6 milioni di persone nel 50° anniversario dei morti di Stonewall e Gay Pride di New York nel 2019. È un viaggio molto divertente anche, ci siamo molto divertiti a presentarlo, a girarlo. Cosa ti ha impressionato maggiormente nella sua figura? Io lo conosco da tanti anni, ci sono alcune cose che non conoscevo che mi hanno molto sorpreso e molto colpito, e quindi soprattutto tutta la parte legata alla sua infanzia, al rapporto con la campagna, con gli animali e con le atmosfere anche del mondo rurale, un aspetto di Franco che io non conoscevo, che lui ha mantenuto molto forte. E poi la cosa più importante, che poi credo sia stata anche tradotta da un punto di vista cinematografico, è la cosa che mi ha sempre più colpito di Franco, è questo suo raccontare poetico con ironia, senza prendersi mai sul serio, ribaltando sempre il punto di vista a volte anche violento, volgare dell'avversario, ridendo e usando il paradosso anche per rispondere e per ribaltare il senso del pregiudizio. Ecco, questa è una cosa che a me ha sempre colpito di Franco, e questa parte ironica e poetica e divertente anche nelle migliaia di aneddoti che Franco può raccontare, l'abbiamo cercata di tradurre e trasportare nel film. Penso che questa sia forse una delle parti più riuscite del film, ecco, dalle proiezioni che abbiamo fatto, forse la più apprezzata, ecco, oltre al fatto che ovviamente racconta 40 anni di storia che oggi le giovani generazioni poco conoscono, e come dice sempre Franco, molti non si rendono conto che in questi 40 anni tante cose sono cambiate, meglio, ancora molto resta da fare, ma tante cose sono cambiate. Un'uscita dal 31 al 2, poi che succederà? Adesso di tanti film documentari, no? Si dice che hanno una vita lunga, cioè che continueranno, non si bruciano in pochi giorni, per cui noi abbiamo già molte prenotazioni anche dalla prima vera in poi, molte prenotazioni di festival all'estero, e uscirà in TV per Sky Documentari credo tra marzo e aprile, e quindi un film che accompagneremo molto volentieri in giro dove ci chiamano, dove andremo. E Franco è molto presente anche alle presentazioni, e sono sempre momenti anche di condivisione collettiva importante, ma anche molto appassionate, molto partecipate. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? C'è una pagina Facebook del film che è continuamente aggiornata. Dovrebbe uscire l'elenco con tutte le sale in cui il film esordirà dal 31 al gennaio al 2 di febbraio, e le sale ogni giorno stanno crescendo, però Genoma Film di Paolo Rossi Pisu mi assicura che saranno davvero tante le sale che proietteranno il film, perché certo molti film adesso sono stati ritirati dalle sale, come purtroppo ben sappiamo, e noi abbiamo in qualche modo così la fortuna e anche l'opportunità, ecco, il coraggio un po' di inserirci in questo buco di mercato, e quindi forse è anche più facile uscire nelle sale. Il documentario Let's Kiss, Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile, al cinema dal 31 gennaio al 2 febbraio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Filippo Vendemmiati. A presto! Grazie a voi, grazie di averci ospitato. Ci vediamo nelle sale, grazie. Con Simone Aleandri, regista del film La notte più lunga dell'anno, al cinema da giovedì 27 gennaio 2022. Ben trovato! Grazie Federico, grazie per l'invito. Come lo racconteresti in breve? Il film si svolge tutto in una notte, che è quella del solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno, appunto, che poi dà il titolo al film. In questo arco temporale di 15 ore di buio circa si sfiorano quattro storie principali che ruotano intorno a un centro gravitazionale rappresentato da una pompa di benzina. Queste storie si sfiorano senza mai intrecciarsi e i personaggi fanno i conti con la parte più profonda di loro stessi. Sono davanti a un crinale e aspettano che arrivi l'alba. Dove è partito tutto? Com'è cominciato? L'idea muove da un soggetto di Andrea Di Consoli, che è un autore con cui collaboro ormai da diverso tempo. Con lui mi scambio inquietudini, tormenti. E tratteggiò per me una serie di personaggi che fin da subito ho sentito molto vicini. Poi insieme girammo un documentario in Basilicata e fu lui proprio a farmi posare lo sguardo sulla cittadina di Potenza, questa città apparentemente ordinaria che però aveva un grande potenziale, un po' me lo suggeriva di fatto anche il nome, perché rappresentava un po' uno spazio metaforico rispetto a quello che volevamo raccontare. Questo è un film più che di storie, è un film su un sentimento nei confronti della vita, un sentimento che ruota intorno alla malinconia, alla visceralità. E Potenza offriva uno spazio narrativo, un perimetro narrativo, direi che ne rifletteva uno esistenziale, perché è una città apparentemente immobile, fatta di stratificazioni, di edifici pesanti, una sorta di non luogo che potrebbe essere in tante altre parti e quindi è sovrapponibile a tante altre realtà. E queste astrazioni date dagli edifici, Potenza pochi lo sanno, ma ha una scala immobile tra le più lunghe del mondo, da un punto di vista simbolico e metaforico andavano incontro al racconto che volevo fare, cioè quello di raccontare dei personaggi che erano in transito ma fermi al tempo stesso, un po' come accade nel film. C'è una scena iniziale del personaggio di Luce interpretato da Ambra Angiolini che sale queste infinite scale mobili, lei è ferma mentre intorno a lei tutto si muove lentamente. In fase di scrittura c'è stato uno scambio, avete lavorato insieme? Assolutamente sì, come dicevo, con Andrea, dal quale sono legato poi da un sentimento di affetto, ci scambiamo da anni idee e anche se muoviamo da indoli profondamente diverse, nel corso del tempo abbiamo condiviso un immaginario e una certa idea di umanità. Poi a questo si è unita Cristina Borsatti, che con il suo lavoro minuzioso ha dato sostanza alla sceneggiatura. La scelta degli attori e delle attrici? È stato un momento molto bello e complicato perché noi abbiamo lavorato in piena pandemia, quindi con la possibilità di ridurre al minimo i provini. Su questo mi sono molto appoggiato al lavoro straordinario che ha fatto il casting del film, Stefania De Santis. Cercavo delle facce che avessero una forza, che riuscisse nel corso di un film corale di imprimere appunto con la loro maschera un sigillo alle manciate di inquadrature in cui dovevo poi ritrarli. E poi sai, l'aspetto della coralità è un aspetto sfidante, esaltante al tempo stesso, perché tanti personaggi devono poi esprimersi in maniera unisona, un po' una polifonia, e sta anche molto all'attore andare oltre la parte scritta del proprio personaggio. E ho avuto degli attori incredibili, straordinari, che si sono calati nella coralità con infinito coraggio fin da subito, sono molto contento. Che tipo di distribuzione sarà? In quante sale? Il film, che è prodotto da Clipper Media di Sandro Bartolozzi in collaborazione con Rai Cinema, è distribuito da Vision, inizia il suo viaggio nelle sale cinematografiche in 196 sale, che per un'opera prima insomma ci riempie d'orgoglio anche rispetto al lavoro che è stato fatto. Noi siamo partiti un anno fa, quando i cinema erano chiusi, e abbiamo lavorato in piena zona rossa, non facendoci mancare nulla, perché il film è girato appunto a Potenza, che era una città che non era mai stata rappresentata da un punto di vista cinematografico, una città di montagna a 900 metri d'altezza, e soprattutto il film è ambientato tutto di notte, che da un punto di vista tecnico ha delle accortezze delicatissime. E io devo ringraziare non solo il cast, ma soprattutto l'apparato tecnico che ha lavorato con me, ad iniziare da Vincenzo Carpineta, che ha dato forma e sostanza alle mie inquietudini, facendo diventare belle. È stato un lavoro veramente duro, ma molto gratificante. Il film La notte più lunga dell'anno, al cinema da giovedì 27 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Simone Aleandri. A presto! Grazie. Con Daniele Martinis, regista del documentario Ungheria 21, in proiezione a Roma al Teatro Tordinona 28 e 29 gennaio 2022. Ben trovato Daniele. Ciao Federico, ciao a tutti. Ce ne parli? Ungheria 21 è un documentario che è parte di un progetto più ampio che nasce dalla nascente rivista L'Atlante. Fa parte di questo progetto che è un reportage transmediale, se così vogliamo chiamarlo, nel senso che oltre al documentario Ungheria 21, che è un prodotto filmico, audiovisivo, cinematografico, se vogliamo chiamarlo così, c'è un mese e qualche giorno di viaggio in Ungheria. Sono stati realizzati anche una serie di podcast, quindi un audiodocumentario, un reportage fotografico e una serie di articoli che sono stati scritti. Quest'altra parte della lavorazione è stata ad opera di Ciro Colonna per quanto riguarda i podcast, di Gianmaria De Luca per quanto riguarda le foto e di Sabato Angeli per quanto riguarda invece la parte giornalistica. Sabato Angeli è anche il fondatore di questa nuova rivista che si chiama L'Atlante, che nei prossimi giorni uscirà sul web. Già c'è qualcosa, si può trovare al sito atlanteeditoriale.com. E Ungheria 21 nello specifico è un documentario che racconta di questo viaggio in Ungheria e racconta di un paese di cui si parla spesso, di cui però si conosce poco. Non parla direttamente del grande nemico Orban, ma parla di come una società, dopo 12 anni di autoritarismo, se possiamo chiamarlo così, si prepara a quelle che saranno le prossime elezioni. Quindi è un viaggio che si compone di diversi capitoli. Il primo è sui media, quindi sulla situazione di tutta la propaganda che il governo inglese sprigiona forte sui media nazionali. C'è una parte che parla dei diritti civili, quindi la questione LGBT. C'è un viaggio che arriva alla frontiera, dove abbiamo incontrato dei migranti e la gente che gira la caccia, perché abbiamo incontrato delle guardie di frontiera che passano la loro giornata a cercare i migranti. C'è una parte che riguarda il nemico storico nell'immaginario ungherese, ossia i Rom, una comunità enorme che vive ancora ghettizzata in quartieri segregati. E quindi abbiamo cercato di toccare tutti questi temi. L'abbiamo fatto senza aggiungere voci fuori campo, senza aggiungere spiegoni. Tutto il documentario viaggia attraverso le voci di queste persone, quindi sono voci che s'alternano e che compongono un quadro, speriamo il più accurato possibile, di quello che è l'Ungheria in questo momento storico. Come era partito questo progetto multimediale? Nasce dall'idea di Sabato Angeli, che nel momento in cui ha deciso di iniziare questa nuova avventura dell'Atlante aveva immaginato un grande viaggio nell'Europa dell'Est, quasi a ripercorrere il viaggio di Simenon di Europa 33. ci ripensavamo e speravamo di riuscire a attraversare parecchi paesi, mentre invece, come succede spesso quando ti trovi davanti a questa avventura nelle quali ti butti, ci siamo trovati davanti a uno dei paesi più piccoli che c'era lì, perché l'altra idea era quella di raggiungere la Bielorussia, la Polonia e l'Ucraina, e invece quando siamo arrivati in Ungheria ci siamo resi conto che le storie da raccontare erano talmente tante, e soprattutto che ne uscivano in continuazione, che abbiamo dedicato questo mese e mezzo di viaggio solo all'Ungheria, con l'idea di riuscire poi ad espandere questo viaggio nei prossimi capitoli, che dovrebbero essere dedicati agli altri paesi che ho citato. Che impressioni ne hai ricavato da questo viaggio? Che l'Ungheria è un paese molto complesso, ma allo stesso tempo anche molto facile da interpretare, nel senso che ha una grande capitale come Budapest, che è una città pienamente europea, dove quindi anche il peso di quelle che sono le politiche di Orban e del suo autoritarismo forse si respira meno. Si contrappone invece a una grande parte di paese, che è quella delle campagne, dove invece è fortissima questa presenza, dove la gente spesso parla per stereotipi, non so, dei migranti, senza magari degli vaisti, dove la presenza di Fidesz è molto radicata, e quindi sono queste due anime molto divise. E abbiamo notato molta rassegnazione anche in quelli che sono, che ne so, persone che partecipano più magari alla vita politica del paese, media attivisti politici, comunque si trovano in una situazione di sconfitta perenne, come se negli ultimi 12 anni fossero stati schiacciati e legati in una nicchia nella quale continuano poi ad agire e a cercare di portare proposte, idee, a cercare di resistere in qualche modo, ma dall'altra parte la potenza di Fidesz e di Orban è talmente grande che li schiaccia. In più a questo si aggiunge il fatto che un'opposizione vera e propria in Ungheria non c'è, nel senso che alle prossime elezioni si andrà a presentare una grande coalizione che include al suo interno dall'estrema sinistra all'estrema destra, nel senso che ci troviamo, l'estrema sinistra poi non esiste in Ungheria, però comunque da una sinistra che è quella di Parbezed a Jobbik, che era il partito che fino all'altro giorno diceva che la minaccia sionista incombeva sull'Ungheria e che ora invece, scavalcata a destra dalla propaganda di Fidesz, diciamo, si è riposizionata al centro e si è creata questa grande coalizione che si cercherà di opporre ad Orban fondamentalmente, ma insomma, il panorama è abbastanza sconfortante e anche chi si ritrova in mezzo a questa situazione lo sa. Tutti quanti ci hanno detto che la cosa più importante per loro è sconfiggere Orban. Siamo stati anche in giro per delle università, nonostante poi noi siamo stati lì ad agosto, quindi la vita magari era limitata. Noi abbiamo cercato di raggiungere i giovani, soprattutto nelle località di villeggiatura, quindi il lago Balaton o in città universitarie come Gioia, dove comunque durante agosto andavano avanti lezioni e c'era presenza universitaria. Quello che abbiamo visto è che una buona parte dei giovani vuole lasciare l'Ungheria, quindi sono lì, studiano in università e poi cercano di andare all'estero per fare altre cose, perché comunque è abbastanza deprimente la situazione ungherese. Un'altra buona parte invece è convinta di rimanere nel paese, perché il paese sta prendendo, secondo loro, la strada che loro vorrebbero, ossia quello di una deriva verso l'autoritarismo, che però anche lì a molti giovani questa cosa evidentemente piace. La cosa che più ci ha toccato su questo qui è quanto ci ha detto ad esempio il vice segretario di Jobbik, Martin Ghionghiosi, che all'interno dell'intervista che abbiamo fatto a un certo punto ci ha detto: qui i migranti non ci vogliono stare, ma non ci vogliono stare nemmeno gli ungheresi. E questo in realtà è così, perché comunque la tensione verso quelle che sono le democrazie europee in molti giovani è percepito come un bisogno reale, mentre poi c'è anche un'altra buona parte invece che vive in Ungheria e continua a pensare all'Ungheria che è il paese più bello del mondo, perché ci stanno solo gli ungheresi fondamentalmente. E questa è la cosa che salta molto agli occhi, nel senso che a parte a Budapest, sì, in giro per l'Ungheria non si incontrano migranti, non si incontrano altre razze, se non quella bianca che è usgatica ungherese. La proiezione sarà accompagnata anche dalla mostra fotografica, giusto? Sì, la proiezione sarà accompagnata da una mostra fotografica e da una serie di ascolti di podcast realizzati. La mostra fotografica di Gianmaria De Luca è una mostra in cui fondamentalmente Gianmaria ha ribaltato il modo con cui si raccontano i migranti, quindi invece di metterli in scena con delle foto dove i contrasti li riportano spesso a una situazione di abbandono, di tristezza, di sconfitta quasi, ha deciso di rappresentarli come se fossero delle superstar, dei calciatori quasi, quindi con i migranti che vengono raccontati nei luoghi dove ora sono, ma attraverso l'utilizzo di flash, attraverso l'utilizzo di tecniche fotografiche, vedete, questi immigrati escono fuori con i loro sorrisi e con un'estetica quasi pubblicitaria, dove non sono i disperati che attraversano il confine, ma sono le superstar di quel confine in quel momento là. Dopo questa presentazione, che percorso hai pensato? Non ce l'abbiamo ancora, cercheremo di capire come distribuirlo nei prossimi giorni. Intanto questa presentazione ovviamente abbiamo fatto degli inviti mirati, quindi speriamo che ci possa essere gente interessata a darci una mano a distribuirlo. Siamo prontissimi a portarlo in giro dovunque ci chiameranno. Per saperne di più c'è una pagina social, un sito internet? C'è un sito internet che è atlanteeditoriale.com e invece sui social, sia su Instagram che su Facebook, il nome da cercare è Atlante Editoriale. Il documentario Ungheria 21 in anteprima a Roma al Teatro Tordinona il 28 e 29 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Martinez. A presto. Grazie Federico, a tutti e tutti. Ciao. Con Domiziana De Fulvio, regista del documentario Sisterhood. Proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, venerdì 28 gennaio 2022. Ben trovata! Grazie! Ciao a tutte e a tutti! Ciao Federico! Ci eravamo sentiti poco più di un anno fa perché il tuo documentario andò online. Ripartiamo da capo. Come lo presenteresti? Un documentario sì, che in qualche modo nonostante tutto ha avuto una vita lunga, perché è stato girato alla fine del 2018, poi ha avuto un lungo percorso al montaggio, sono state rifatte delle riprese, insomma, anche perché il documentario è ambientato in tre differenti città, Roma, Beirut e New York, quindi insomma non proprio facili da raggiungere. Poi con la pandemia abbiamo rinunciato a una serie di presentazioni, ma abbiamo avuto un discreto successo online con l'iniziativa degli esercenti cinematografici. Io resto in sala anche con dei festival online, il 18-18, un altro festival solo per registe donne a New York, ad Harlem, che è proprio uno dei quartieri in cui è ambientato il documentario, e l'uscita in sala è stata sempre quindi rimandata. E allora eccoci, finalmente. Che racconto è? Di sorellanza tramite il basket, lo sport, in contesti di sport popolare, come viene definito, ovvero spontanei, perché parla di tre squadre amatoriali di basket femminili, una a Roma all'area dell'ex Osnia, una a Beirut nel campo di rifugiate e rifugiati di Shatila e un'altra ad Harlem, appunto a New York. E tramite questo gioco che si svolge in campi di strada, queste donne creano anche, potremmo chiamarli, dei presidi di resistenza, no? Sfidando anche tutta una serie di altri temi come appunto le regole di strada e quindi degli incontri, scontri che si possono creare in quei luoghi. Che impressioni ne hai ricavato da questo viaggio e da queste conoscenze? È stata un'emozione importante anche solo creare insieme ad altre persone questo documentario. Per me era la prima volta, cioè lavoro da tantissimi anni nell'audiovisivo, in produzione di solito, cioè mi occupo di logistica e organizzazione, è stata la prima volta che sono passata dall'altra parte e quindi è stato molto emozionante, ma ovviamente anche grazie a un'ottima squadra, un'ottima compagnia che ho avuto e anche grazie alle ragazze, quindi da loro ho imparato tanto, anche perché ogni squadra viene da un contesto differente. Ma quello che mi è piaciuto appunto anche è stato rintracciare queste affinità, no? E quindi anche un po' nel documentario ho voluto giocare molto creando un dialogo tra una città e l'altra, fra una ragazza e l'altra, come se ci fosse un confronto o un riconoscimento di molti aspetti, ecco. Come si sono riviste attraverso il tuo occhio? Molte purtroppo ancora non si sono riviste, però in molte, sia loro sia persone al di fuori, quello che forse un po' è uscito fuori è una voglia di incontrarsi, nel senso che ora è stato creato un confronto e un dialogo tramite il film, no? Però quello che piacerebbe loro è incontrarsi veramente e quindi creare anche una serie di iniziative insieme, un po' come avevamo iniziato con l'iniziativa Basket Beat Borders a Roma, in cui insomma erano venute le ragazze palestinesi, si sono ritrovate, potremmo dire quello. In quest'anno ci sono stati festival, ora c'è questa presentazione in sala al Nuovo Cinema Aquila e poi il percorso come lo state immaginando? Siamo insomma molto felici di presentarlo poi a Roma, al Nuovo Cinema Aquila. Diciamo che è più la coproduttrice che si sta occupando della distribuzione, che è appunto Silvia Innocenzi di Alfa Multimedia, di questa piccola casa di produzione, e vedremo forse in qualche piattaforma online per continuare a farlo vedere anche al di fuori di Roma, se non ci saranno occasioni di fare altre proiezioni. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? C'è il sito del documentario sisterhood.film. Poi non ho Facebook, ma so che sul sia quello del nuovo cinema Aquila, di Tuba e di altre realtà, insomma, stanno girando anche le informazioni logistiche per gli appuntamenti di venerdì 28. Saranno due proiezioni, una alle 20:30 e una alle 21:50. Il documentario Sisterhood a Roma, Nuovo Cinema Aquila, venerdì 28 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Domiziana De Fulvio. Alla prossima! Grazie mille, grazie! Con Andrea Scarcella, produttore del documentario di cui è partita una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso, il titolo è Benson, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Ci parli di quest'idea? Questo è un progetto che nasce un sacco di tempo fa. È nato dalla volontà di mio fratello, Maurizio, che è il regista, di intervistare Richard Benson, noto e istrionico chitarrista romano, noto di più come personaggio trash, insomma, però con un pedigree da critico musicale alle spalle, niente male. Anni fa stette male il povero Richard e quindi si decise di seguire le sue vicissitudini per cercare in qualche modo di dare voce a questo personaggio che diceva di stare poco bene e che aveva fatto anche delle incursioni su televisioni nazionali, sui giornali, Repubblica TV, Canale 5, insomma, non stava tanto bene Richard. E quindi si decise di dargli un po' di voce e questo progetto è cresciuto sempre di più, fino a che nel 2018 mio fratello disse a me e al mio collaboratore Andrea Pirri, con cui abbiamo questa piccola società di produzione indipendente, Sarastro Film, ci disse: ma vi va di darci una mano? Cerchiamo di portare avanti questo progetto strutturandolo anche linguisticamente in maniera un po' più complessa da come stava prendendo piede. E da qui è partita questa avventura folle che purtroppo per una serie di motivazioni ha avuto una battuta d'arresto, non ultima il Covid e questi ultimi 24 mesi. E quindi, volendo adesso riprendere le redini di questo progetto, ci siamo resi conto che per finalizzarlo nel modo ottimale, nel senso senza rinunciare all'indipendenza del progetto ma senza dover rinunciare neanche a certi standard realizzativi e qualitativi, abbiamo pensato di avviare questa campagna che ci servirà per finalizzare il progetto, che è già bello avviato, ha bisogno di ultimi ritocchi di montaggio e poi tutto il processo di post-produzione che comprende audio, sound design, il mixaggio del suono, la color correction e non ultimo vedere che cosa si può fare con tanto materiale di repertorio di terze parti da dover acquisire. E da qui anche la necessità di mettere insieme qualche fondo, perché noi come piccola realtà indipendente, fino a che c'è stato da creare le immagini, ci siamo. Adesso, nel momento della lavorazione un po' più intensa, abbiamo la necessità di un sostegno economico e quindi si è pensato a produzioni dal basso, perché la figura di Richard ha sempre catturato l'attenzione e l'amore dei propri fans, anche a discapito di tutta una serie di cose successe nella sua carriera. E quindi pensiamo e crediamo che il progetto in questo modo abbia anche una declinazione naturale, cioè una partecipazione dal basso dei suoi fan a vedere quel documentario che tutti loro avrebbero voluto vedere, realizzato bene in modo che anche chi non conosce Richard si possa avvicinare a questa figura. Cosa ti convinceva del progetto? Era interessantissimo il percorso di ricerca anche storica di quello che sono stati gli anni che ha attraversato Richard Benson nella sua carriera. Sono stati 40 anni, quindi a partire dai primi passi fatti sulle prime radio quando era proprio giovane e tutto il percorso fatto nelle televisioni regionali, le sue incursioni in diverse produzioni cinematografiche, tipo Carlo Verdone qualche lo chiamò a fare se stesso il maledetto giorno che t'ho incontrato, e insomma ha saputo esprimere lui anche una molteplicità di caratteri che alla fin fine ti portano a dire su Roma è uno di quei personaggi che veramente ha fatto scuola, ha fatto storia per tanti musicisti, ha insegnato a suonare un sacco di metallari, dice Benson, e quindi ci interessava anche portare questa storia di un personaggio che ha curato talmente tanto la sua immagine, cura stato, tra virgolette, fino a diventare quasi vittima. E quindi ci interessava anche approfondire quel discorso di percorso artistico che non è sempre il più armonioso, il più lineare possibile, ma è un qualcosa che a volte ci puoi anche andare a sbattere i denti con parecchia violenza. E però per noi era interessante la coerenza con cui Richard è sempre andato avanti in queste cose. Quindi l'abbiamo identificato come un mostro sacro dell'underground, spesso anche a sua insaputa, in maniera inconsapevole probabilmente, però è un personaggio che a tutto tondo è veramente, è lo spettacolo, è lo show business, ma con una forte critica allo show business. È un maniacale sostenitore delle competenze reali dei musicisti, laddove forse lui non sapeva neanche bene quali fossero le sue competenze, fin dove li potessero spingere, e però era un fine conoscitore di tutto quello che era il sottobosco musicale, anche in tempi non sospetti, quando l'industria musicale ha cominciato a prendere il sopravvento con la cosiddetta musica di plastica, cosa che poi c'è sempre stata, ma lui in qualche modo in quegli anni ha dato voce a questo sottobosco di gente che non seguiva necessariamente certi percorsi underground, che potevano essere o politicizzati o totalmente al di fuori del contesto mainstream. Era un qualcosa di altro, era un qualcosa che si basava su una comunità sempre un po' chiusa, che poi dopo la volta è cresciuta sempre di più ed è diventata in parecchi casi anche qualcosa di più importante. Tanti personaggi importanti del mondo musicale noi li abbiamo intervistati nel documentario, e tutti loro, cioè come del mondo dello spettacolo, e tutti loro sono concordi nell'identificare in Richard questo valore, il valore di pioniere per tanti e tanti artisti e artiste che calcano ancora tutt'oggi le scene, insomma. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Su Produzioni dal Basso, il progetto è Benson. Su Produzioni dal Basso, sul sito trovate la pagina nella sezione documentari e inchieste, e la pagina Facebook della nostra produzione, Sarastrofilm, trovate tutte le info per caso. Il progetto di documentario Benson, campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso. Un saluto e un ringraziamento al produttore Andrea Scarcella. A presto! A presto, un abbraccio a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.